Stiamo parlando di criminale Assad. E tu sei una testa di cazzo internazionale, stiamo parlando, che non sei altro. Ma che dici? Una volta facevi il giornalista, ti insultava. Ma che cosa sei? Pagato da Assad. Allora pagato io ti denuncio. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. David, potresti andare a fare in culo tu e l'amico tuo Macron. Mando offendere però, e manco non mi denunciare che io c'ho paura. Volevo dire, quello lì che ha sparato, il gioiello che ha sparato nel ladro, ha sbagliato, perché invece di ammazzare uno devo ammazzare tutti e tre, e cazzo ti pare, quello perché vado un po' a fare un po' di tiro-segno, non ne abbiamo ammazzato uno solo, tutti e tre. A me mi sta bene tutto, però io sono d'accordo con Cruciani che quello ne devo ammazzare tutti e tre, non uno solo. Vengo a rompere il cazzo tutti da noi, non ho capito? Scusa, se arrivo da me, gli do una ciabattata, dove lo prendo, lo prendo. Sant'Agostino, San Tommaso, negli scritti sulla guerra giusta, dicono che non è soltanto legittimo, ma è doveroso difendere e difendersi dai assassini, dai rapinatori, dagli aggressori. Si commette un atto di ingiustizia anche di fronte a Dio, oltre che di fronte agli uomini. E non capisco come un uomo, come Parenzo, che è cresciuto in una grande cultura come quella dell'ebraismo, che ha fatto mille guerre sante, non capisca questa cosa elementare. Non capisca questa cosa elementare! Da ebreo! Da ebreo! Sei anche un ebreo! Apri l'Antico Testamento, apri la Bibbia, apri il Libro dei Re! Beh, capisci cosa hanno fatto i profeti di Israele per difendere il popolo dai filistei, dagli amorrei, dai loro vicini, dagli sterminatori, dai nazisti. Io avrei voluto vedere se Churchill non avesse fatto una guerra per difendere gli ebrei dai nazisti. Che cosa sarebbe stato? Altro cazzo legittimo! Altro cazzo legittimo! Un atto doveroso! Peraltro sono anche ebreo, signor... Vabbè, comunque questo... Non mi interessa. Allora, ragazzi... Ci siete? Ma c'è un disegno criminale alle spalle di tutto questo. Ma voglio dire, tanto grazie al regista della Corte che ha riproposto quella adorabile conversazione che facemmo con il signor Chiesa, mi pare si chiami così, no? Sì, quella adorabile conversazione dai toni del giornalismo anglosassone, giornalismo inglese, mai fazioso, mai di parte, no? Lui mi pare che abbia usato degli epiteti nei miei confronti, quindi grazie. Anche tu, amico mio, non ti sottrarre. Però voglio iniziare con una cosa. Sì. Questa sera voglio... Grazie per avermi dedicato questa copertina, li mortacci nostri. Voglio iniziare con una cosa che magari non interessa a nessuno, sì, però ha sì. una Fammi sua dire solo questo, poi vado via. No, dai, su, sì, che devi dire adesso? No, poi che me ne devi vado dire? Perché mi sono anche un po' stufato. Dimmi, dimmi. La indegna gazzarra della Lega, scatenata dalla Lega sullo Ius Soli. Ma allora, qual è la gazzarra? Gazzarra? Ma che cosa? Gazzarra. Ma quale gazzarra? Allora, dai, io dico solo su, questo. C'è io vita al questo, Senato. Non intervengo c'è vita più. Al Senato. No. C'è chi vita nasce, al Senato. Chi nasce in Italia, chi nasce qui è italiano. Ma non dire stronzate. Fine. Non dire stronzate. Quello di cui si discute oggi al Senato è uno ius soli temperato. No, non mi interessa, non mi interessa. Ma il principio deve essere chi Ma chi nasce... te l'ha detto? Ma chi Silenzio. L'ha detto? Ma chi lo sostiene? Zitto. Ma chi lo sostiene? Chi nasce in Italia è italiano. Ma chi l'ha detto? Chi nasce negli Stati Uniti? E ma che è c'entra? Americano. Ma cosa c'entra? La patria della libertà. Ma lì non entri del però. Diritto. Lì non entri coi chi barconi. Nasce non lì entri però. È americano. Dai, non dire stronzate. E chi dai. Nasce in Italia è italiano. Ma questo non lo dici tu. Basta. Non è che chi dice il contrario chiudiamo. È fascista. 19, 18 non è... e 30. Fine. Sì. Non si può più discutere di questa cosa. Ma non dire chi stronzate. Nasce qui è italiano. Ma tu sei completamente pazzo. Ragione. Tu sei pazzo Fatevene totale. Fatevene una ragione. Allora io dico solo una Basta. Cosa. C'è un equivoco colossale intorno a questa vicenda. Se Proviamo. Sei contro lo ius soli, che ripetiamo per chi non lo sapesse, lo se nasci tutti. Qui sei italiano, il diritto anche del se poi suolo. Anche... terribile. Aspetta, la parola ius stai sanguinis, tranquillo. Il diritto del sangue, ma che roba è? Stai fa tranquillo. Schifo anche la roba, il nome allora, stesso sanguinis, le qui... il sangue. Oh, calmati no, un attimo, no, no, no, no, calmati. Su questo non passi, su ma questo non passi stasera. Cosa? cosa. Non ti muovi da qua stasera. C'è un equivoco. Se sei contro questa roba qui che si chiama Ius Soli, sei un fascista, sei un razzista. E sei un seguace di Salvini, non passa, sei un seguace del Duce, eccetera, passa, eccetera. No, passa. Chi si oppone allo Ius Soli semplicemente non vuole che chi nasce in Italia, i bambini che nascono in Italia e non sono italiani, siano immediatamente italiani. Poi potranno diventare italiani, sicuramente. Non siano immediatamente italiani. Non mi pare una cosa vergogna, così drammatica. Una non significa essere fascisti. Una vergogna inumana. Ma che vergogna basta. Inumana. Non passa. Però io volevo dire un'altra cosa. Stasera non mi muovo di un centimetro. Non passa questo cosa, non passa. Stasera non mi muovo da questo principio. Vabbè, ragazzi, qua. Però la questione è diversa. Allora, volevo dire. Avanti. Perché mi hai fatto parlare subito di questa cosa qua? Stasera, perché? No, stasera non mi muovo di un centimetro da qui, No, questa sera non c'entra? Passa. Perché vedo telefoneranno minchioni da Pisa. Imbecilli da Foggia chiameranno sicuro, lo so, ma non mi muovo stasera da qui. Sono qui muovere, a tenere il punto fermo. Ius Soli sanguinis, brutto anche il termine sangue, il sangue, il basta. No, guarda, stasera io sono irremovibile, te lo dico, te lo dico. No, però c'è una cosa, un elemento. Allora, sì. Una persona che alcuni di voi conoscono, sì. Che sicuramente è un mio amico, ma conosce anche Parenzo, che si chiama Filippo Facci, è un giornalista del quotidiano Libero, bravissimo giornalista, opinionista televisivo, eccetera, eccetera, ha le sue idee. Sì, mi risulta, dalle mie, ma è un bravo giornalista, mi risulta che signor Facci è stato condannato a 2 mesi di sospensione dalla professione, cioè non può più scrivere, ma dai. No, e soprattutto non può avere 2 mesi di stipendio. 2 mesi di stipendio, ma come mai? Perché un anno fa, quasi un anno fa, ha scritto un articolo su Libero che aveva come titolo Odio l'Islam, ed effettivamente il titolo corrispondeva al contenuto dell'articolo. Vi leggo solo alcuni passaggi. Perché non dovrebbe più scrivere? Io non condivido una riga di quell'articolo. Due mesi senza stipendio folle. Per avere scritto Odio l'Islam. E perché? Senti, che la cosa procura, se mai, senti, no, l'ordine dei giornalisti. Odio l'Islam, ne ho abbastanza di leggere articoli scritti da eccetera eccetera. Vabbè, però il contenuto vero era questo, senti, odio l'Islam, tutti gli Islam, gli islamici e la loro religione più schifosa addirittura di tutte le altre, odio il loro odio che è proibito odiare, le loro moschee squallide, la cultura aniconica e la puzza di piedi, i tappeti pulciosi e il loro tarocco, il muezzin, i loro veli, i culi sul mio marciapiedi, il loro cibo da schifo, i digiuni, il maiale, l'ipocrisia sull'alcol, le vergini, la loro permalosità sconosciuta alla nostra cultura, le teocrazie, il taglione, le loro povere donne, quel manualetto militare che è il Corano, anzi quella merda di libro con le sue sire e le sue sure, le fatue, queste parole orrende che ci hanno costretto a imparare. E poi scrisse altre cose. Certo, non era un articolo, come dire, conciliante nei confronti dell'Islam, ma se uno lo vuole denunciare, lo denuncia in tribunale. Per quale cazzo di motivo uno non deve prendere lo stipendio per 2 mesi perché scrive queste cose in nome di un ordine dei giornalisti ridicolo? Dai, su, basta. Sì. Allora, lo Ius Soli, che c'è da dire? Alemanno? Alemanno da Parenzo? Andiamo, vai. Entro un secolo ci saranno più immigrati che italiani. Noi abbiamo fatto dei calcoli su quelli che sono i dati Istat del bilancio demografico. Fra meno di 90 anni i discendenti di immigrati saranno più dei discendenti italiani. Poi io quando sento alcuni di questi cioè, mi viene la tentazione di andare dall'altra parte, non so come dirti, dai, no, certo. Su queste stronzate no. Io sono contrario, ma non sono contrario perché tra 20 anni ci sarà l'invasione dei cosi. Anche se certamente sarebbe molto facile arrivare oggi incinta in Italia, tu nasci in Italia e sei immediatamente italiano. In America è così. Ma ok, ma chi se ne frega? Ma non è che dici in America è così. Cioè, in America, amico mio, in America fanno pure il muro, però fanno il muro tra Messico e Stati Uniti. Che ma vuol sì, dire? Ma quello con quel parrucchino in testa lì che ha più indagini lui. Nixon al posto di Trump si sarebbe già dimesso, hai capito? Quello ovunque va, fa robe, si dimetterà, speriamo. Di Stefano Casa Pound hanno manifestato davanti al Senato. Visto, non so dove. Sì. Cavallo di Troia per i terroristi islamici. C'è ovviamente anche il motivo pericolosissimo del cavallo di Troia con cui gli integralisti islamici usano questa vicenda dello Ius Soli per in qualche maniera entrare nelle nostre nazioni e mettersi contro di noi. Io il presidente della Toscana Rossi, se non sbaglio. Gli immigrati regolari delinquono meno degli italiani. Sì, ma... bah. La realtà è che gli immigrati regolari delinquono meno degli italiani. Gli immigrati che hanno un permesso di soggiorno, che sono residenti, pagano le tasse, è più quello che danno al paese di quanto non prendono. Allora, poi c'era il signor Casarini, ve lo ricordate il signor Casarini? Quello dei no global. Adesso sì. Con chi sta? Non ho capito, con la sinistra, sinistra italiana, italiana? Con sinistra la sinistra italiana. Italiana. Ma da un po' sta così. Sì, sì, sì. Casarini contro Alemanno. Senti. Era da me oggi, ospite, sì. Lei Alemanno fa il discorso contro i barconi per affondare i barconi. È d'accordo con i canali umanitari? L'ha detto migliore, non ha mai parlato di affondare i barconi. Vabbè, ok. Se lei mi spiega, Alemanno, come si fa a fermare barconi pieni di gente e riportarli in un paese in guerra, in un paese dove vengono torturati e uccisi quando vengono presi? Sì, però Casarini deve sapere che quelli che vengono qui in realtà e che sono riconosciuti come rifugiati politici, cioè che vengono veramente dalle guerre, sono meno del 10%. Cioè, perché lui pensa che ci siano tutti i barconi pieni di persone che scappano dalle guerre. Non è così. Cioè, i dati dimostrano, Casarini, questa volta i dati dimostrano che non è così. Ma cosa sei, l'Istat sei... adesso? No, sei ma anche se... l'Istat. Ma no, ma è chiaro, questo lo dicono tutti, no? Sei diventato tutti... l'Istat. Vabbè, allora non va bene nemmeno questo. Ma cioè, no, meno del 10% dire? Vengono dalle guerre. Ma sono scappano riconosciuti... dalle guerre, dalla fame, da, ma... dal Maghreb, ah, da situazioni dalle... scappano dall'Africa dalla subsahariana. Bene, ma mettiamo che scappino dalla fame. Ma allora, certo. E che c'entriamo noi? Ma se tu... Come che c'entriamo noi? Ma figlio mio, ma se tu scappano avessi, dalla fame, ma non possiamo ma se prendere tu tutti. Ci fossi vabbè, non c'è un niente cittadino da fare, del Senegal. Sentiamo ad esempio, ancora, sentiamo no? ancora Casarini contro Alemanno. Con dai. Tua figlia vorresti andare dove c'era. Ma perché gli italiani? Ma non ci puoi in andare, America? Ma non perché possiamo aprire lavoro, tutto. No? Non possiamo. La gente cerca la felicità. Si chiamano. Cominciamo a cambiare il lessico. Intanto sì, cambiamoci detto, perché cercatori allora, sono ricercatori di felicità. Allora, tu vuoi bloccare il diritto alla felicità? Sì, assolutamente. Tu vuoi la felicità? Sì, non me ne frega un cazzo. Non me ne frega un cazzo della felicità. Vuoi la migliore cosa non per me ne frega figli, nulla della per sì, tua per i miei. Figlia vuoi con la stessa cosa cercano i cercatori sì, di felicità su questa cosa qui sono egoista felicità. Su questa cosa qui sono egoista chiaro sono egoista anche vabbè, loro noi abbiamo il diritto felicità. Di bloccarli non abbiamo il diritto di bloccarli tu, Storace, ma che c'entra Storace ma che cazzo me ne frega la me. Felicità delle persone fermi, fermi capito tutti, fermi questo tutti. È il punto vero Cruciani non fare il grande sei un servo di merda servo La Zanzara Parenzo! Parenzo, richiedenti felicità. Ma che cazzo stai dicendo? Oggi ti aspetta una serataccia, eh? No, per oggi voi. Ti aspetta non una passate, serataccia. Stasera non passate, stasera una non passate. Serataccia, una stasera serataccia. Non passate, non passate stasera. Una Ius serataccia. Soli. C'è un'altra guerra in corso, quella tra la signora Efe Ball e il signor Rocco Siffredi. Non ho seguito, scusami. Non ho seguito oggi. Ti chiedo praticamente scusa. La signora Efe Ball ha definito Rocco un vecchietto. Sì, un vecchietto. E ha detto: ma ritirati, vai in pensione, non girare più film porno. E lo ha invitato a mettere al suo posto dei giovani che lei conosce e che lei frequenta come clienti, che sono in realtà molto più freschi da questo punto di vista. Molto più freschi. La guerra Efe Ball Rocco Siffredi è molto più appassionante, però. La guerra Efe Ball Rocco Siffredi piuttosto che il modello tedesco oppure che so, il maggioritario. Diciamo la verità, cioè, ti appassiona di più questa no, cosa? No, non mi trascinerai. Non ti trascinerò. No, a me interessa di più il tema dello sbarramento al 5% e il fatto che avremo due leggi elettorali diverse per la Camera e per il Senato. Sì, sì, beh, certo. Credo, anzi, a questo proposito sia interessante sentire il parere del professor Gustavo Zagrebelsky, che su questo ha scritto. Guarda, lo chiamo subito questa sera. Immagino che lo farai. Giovanni dalla provincia di Foggia, dai. Sì, sono fascista e me ne vanto. Ecco, quel assoluto, brutto cominciamo. Scemo lo deve, la deve smettere di dire che chi è fascista e reale. Perché se ci siamo ritrovati in guerra, stai zitto, scemo, stai zitto, perché partito se ci siamo ritrovati in guerra, dobbiamo ringraziare a quel brutto scemo di Chani e tutta la massoneria come te. Ecco perché ci siamo ritrovati in guerra. Giovanni, ma che ce ne frega? Ma che ce ne frega della guerra? Scusi, ma non è un convegno Ma perché è impazzito così? Ma è uno storico questo qui? Noi che cazzo di colpe ci Scusi, abbiamo? Professor Giovanni, ma lei è uno storico dell'Università di Foggia? Ma non possono venire così a rompere i coglioni qua, i licari. Ma lei è un accademico dei licei? No, scusi, professor Giovanni, ma lei è un accademico? Calma, Giovanni, ti spacco la lingua. Ma che è? Mi pare di capire, Giovanni. Ti spacco la lingua. Sì. A chi? No, sì. No, Giovanni, mi pare di capire. Ma questo abbiamo capito. E sono orgoglioso di essere malato di cervello. D'accordo. No, ma d'accordo niente. Comunista che hanno fatto 100 milioni di morti. Ma devi stare tranquillo però. Giovanni, se no il camion sbanda, sei sul camion, sbanda. Io sto a casa, sto a piedi, non sto sul camion. Ah, ma come mai oggi non sei sul camion, Giovanni? Perché questa settimana l'ho preso di ferie. Chissà dove l'ha presa. Come mai sei così avvelenato? Come mai, Giovanni? Lei per quale università lavora? Perché è fascista un reato, se lo sta inventando lui, non c'è nessuna legge che hanno fatto. Mi devono staccare la testa sotto la ghigliottina. Sarai accontentato. Sì, va bene. Voglio quando capire questo, Giovanni. Lei devono mettere sotto la ghigliottina e dirò: sono fascista, tagliami la testa. Sì. Però Giovanni, io ti staccherò la lingua. A chi, scusi, professore? Ma perché? Ma perché devi staccare la lingua? No, devo staccare la lingua come quando ammazzi i maiali. Sì, volevo capire questo. Lei ha, mi pare di aver capito che ha studiato la Normale di Pisa, giusto? È uno storico. Benissimo. Mi pare di capire, qual è il suo ultimo saggio che ha scritto? Qual è il suo ho chiamato per parlare con Giuseppe Cruciani, non con te, capito. Hai capito, scusami, Giovanni, ti ricordo che io la bandiera comunista staccavo la stella e la andavo a mettere sotto il culo delle vacche. Giovanni, scusa, ma è un accademico di Francia questo, non ho capito, sei in ferie, calmate un attimo, sei pure in ferie, sei in ferie, perché non posso essere in ferie, sì, a chi devo chiedere permesso? A nessuno, per carità. Ai comunisti di merda devo chiedere permesso. Ma lei deve ringraziare il Padre Eterno che ancora vive. Ma lei non esiste nella lingua italiana, è un accademico, ignorante, asino. Lavora alla Treccani, lavora alla Scusi, non ho capito. Ma perché è partito? Non ho capito, Giovanni, ma lei ha insegnato all'università Sciences Po con Letta? Non riesco a capire. Senta, scusi, professore. Scusi, professor Giovanni. Qual è l'ultimo lavoro che ha fatto? Il suo ultimo libro? Qual è stata la sua ultima fatica, professore? Professore, qual è stata la sua ultima fatica, professor Giovanni da Foggia? Ho capito, ma lei adesso è in uscita un suo libro, immagino. Ma è uscito un suo ultimo lavoro? Allora, il vostro programma, tra parolacce, cazzo, vaffanculo, innanzitutto è di basso livello. La radio la fai tu, sei tu il fenomeno. Fenomeno. no? Io non ho capito una cosa, ma che c'entra? Fenomeno sarai tu che guadagnerai 3-4 mila euro al mese, non io. Siete dei volgari e ignoranti. Questo è arrivato non... lui, Ivan. Non è sbagliato. È arrivato il censore Ivan. Frate, fammi fare il fenomeno. Fenomeno. Vergognatevi. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. La Zanzara. Parenzo! Pare, certo che fai cagà proprio, deve, fai vedere i latte alla ginocchia, quanto cazzo sei brutto all'aria che tiro, mamma mi lo guarda, mamma fai paura proprio, pare, aiutatelo, senti che sei brutto, curto e brutto, un abbraccio caro Parenzo, la minoranza silenziosa, anzi no, la maggioranza silenziosa dei miei coglioni, un abbraccio di nuovo. Questo è un genio comunque, eh. Questo è un genio, questo è un genio assoluto. Allora, devi sapere, caro Parenzo, che in questo istante i famosi social, no? I social, e non solo i social, cioè Facebook, sì. Twitter, tutte queste diavolerie qui, stanno impazzendo su una questione che a te frega meno di zero. Cioè, il fatto che il portiere del Milan, l'attuale portiere del Milan, che si chiama? Come si chiama l'attuale portiere del Milan? David, il portiere del Milan di adesso, come si chiama? Io non so, so dirti di... cioè, ma tu non segui le tendenze sociali del momento, social del momento? Niente. Il portiere del Milan, non sai come si chiama il portiere del Milan di adesso, di ora, non lo sai? Interessa, dai, niente. Non mi sai interessa, si... non lo so, non mi riguarda, non ma mi che interessa non ti riguarda, niente. Ti devi riguardare tutto. Si chiama Donnarumma. Donnarumma. Quanti sono? Donnarumma, tutto attaccato. Donnarumma, sì. E di dov'è? E di dov'è? È italiano, di dove cazzo vuoi che sia? Donnarumma. Cioè, calabrese, credo, no? È calabrese. No, sì. È campano, calabrese, non mi ricordo. Vabbè, bene. Cosa vabbè, devo comunque fare questo con Donnarumma? Questo Donnarumma è campano, questo Donnarumma. Tra l'altro è proprietà dei cinesi ormai, quindi sai. Sì, vabbè, comunque. E questo Donnarumma ha deciso di non rinnovare il contratto con il Milan. Quindi cosa facciamo? No, stasera? Ma tu devi sapere che gli danno del traditore, del figlio di puttana, del pezzo di merda, sport, dell'infame, calcio, eccetera, eccetera. Perché il suo procuratore, quello molto potente, che si chiama Raiola, Mino Raiola, io ti devo spiegare tutto. Tu bene, capisci che bene, è una sorta di ABC, una specie di apprendistato. C'è un procuratore molto potente che si chiama Raiola, che ha deciso di non fargli rinnovare il contratto con il Milan. Il contratto con il Milan scade tra un anno. Ora ci sono due possibilità: o questo tizio il Milan non lo fa giocare per un anno e poi lo perde a 0 euro nel 2018, oppure lo cede a un sacco di soldi adesso, capito? Comunque gli aveva proposto un altro contratto, altri anni a 5 milioni circa di euro, eccetera, almeno quello che si sa è così. Però la cosa, questa non ci interessa nei dettagli, quello che ci interessa adesso è che contro questo ragazzo che ha 18 anni e contro soprattutto il suo procuratore si sta scatenando una specie di guerra. Siete dei traditori, siete degli infami, state tradendo il Milan, sei cresciuto lì, ti abbiamo dato tutto, eccetera, eccetera. Tutte cazzate, solo voi credete a queste cose. Uno c'ha quel procuratore decide di portare quel giocatore dove secondo lui è meglio. Arrendetevi, vabbè, è un manager, di fronte a questa cosa. È un manager. Arrendetevi, basta. Magari qualcuno gli ha offerto 10 milioni di euro l'anno, ma 9 milioni caso, di euro, ma non lo so, ma è giusto, vuole guadagnare 10 milioni perché veniva da una famiglia del caso, cioè una famiglia del caso, una famiglia povera, una famiglia di... va benissimo, cioè va bene, no. Adesso perché mi guardate male, vi ho detto una famiglia del cazzo, no, ma era in senso positivo, cioè viene da una famiglia magari non particolarmente abbiente, vuole guadagnare 10 milioni invece di 5, voi direte non c'è differenza, ma io difendo questa scelta, altro che atto di tradimento, altro che schiaffo in faccia, altro che vuole guadagnare quei soldi, va bene così, non lo odiate, non lo massacrate, non gli dite le parolacce, non lo distruggete, a 18 anni si è fatto guidare da un signore grosso, enorme, un ex pizzaiolo, cioè si chiama Raiola, che tutti odiano perché fa un sacco di soldi, capito? tutti sì, sì, l'odiano, ma non è una cosa che mi scandalizza. Però, ma è un calciatore Saad, strapagato Saad da Cosenza, tanto Parenzo su questa cosa non si vuole esprimere perché non sa niente. No, ma cosa vuoi che ti dica? No, ma cosa so? No, so, però c'è una contrapposizione, vale come per gli attori, vale come per i giornalisti, i cantanti, i cosi, Fazio, mica Fazio, quello, quell'altro, cioè si chiama anche quello del calcio, è una sorta di star system, e quindi uno esatto. Soltanto Totti, non beh, Totti anche Buffon, presidente è della regione, B. Non Totti presidente della regione, no, Liguria, dico solo Totti. Il comandante, no? Il calciatore della Roma. Il capitano, che è il comandante? Il capitano. Non il capitano. Sai di cosa parli, no, sei dico soltanto il capitano è rimasto fedele alla Roma. No, ti sto dicendo una cosa. Ma guadagnava dei soldi anche. Ecco, no? Ma soltanto vabbè. Lui è rimasto fedele alla Roma e infatti gliene danno merito, okay. No? Il mitico Bagatta mi scrive, poi conviene anche al Milan. Io sono d'accordo con lui, che lo vendono a 60, 70, 80 milioni e arrivederci, grazie. Dai, Saad Cosenza, però andiamo a Saad, dai, che è muslim. Sicuramente è muslim, dai, Saad. Sì, sono musulmano, cruciani. Eccolo qua. Tu essere muslim, no? Sì, io essere muslim, ma io l'italiano lo parlo meglio di te, cruciani. Sì, può essere, infatti ti ingaggeremo a Radio 24 nella fascia che va dalle 9 alle 11 l'anno prossimo. Saad, bravo. Scusa. Ho capito la battuta. Della maggioranza silenziosa. Ho capito la battuta. Grande Parenzo. Sì. Fratello mio, ascoltami, non devi temere perché siamo in tanti. Quello che tu senti è una rappresentazione grossier, caricata di questo Cruciani che manda in onda. Fratello mio, l'Italia non solo ti vuole. Ma cosa c'entra? Ma chi te l'ha detto? L'Italia ti vuole. Ma questo grazie, è italiano. Anzi, per essere venuto. Grazie per essere venuto. Noi dovremmo dire grazie a tutti quelli che arrivano. Ma perché? Perché a fronte di tante teste di cazzo che abbiamo qui da noi, almeno abbiamo la fortuna di sarebbero tante che tipo che so, Donato per esempio. Vabbè, quello è scontato, una donatese. Mauro D'Amato è una testa di cazzo. Mauro D'Amato ti avverto, Donato sta ascoltando, grazie, ti ha definito una testa qua. Di cazzo, ma totale, ma è riduttivo. Vabbè, dire semplicemente totale, assoluta, quindi siete in tanti, grazie. Maggioranza silenziosa, gente che lavora, prega, non ho ancora parlato, non ho ancora parlato, questo gente che lavora, prega, ama, bravi, lavora, prega. Dimmi Saad, dimmi, tu lavori, preghi, ami? Ma sì. No, io ho 19 anni, ancora vado a scuola. Scusa, ma sei convertito, sei? No, non sono convertito. Io ho origini marocchine. Sei italiano? Mi sono trasferito in Italia. Sì, di cittadinanza sono italiano. Sei italiano, benissimo. È cittadinanza italiana, va benissimo. Come mai sei cittadino italiano? Ma arrenditi a cosa? Ma chi sei? Bravo, arrenditi. È anche musulmana, è anche nera, è anche me. Sì, ma la maggioranza, volete diventare la maggioranza? Non volete, ma chi se ne frega? Non voglio diventare nessuno. Ti piacerebbe diventare maggioranza, i muslim maggioranza? Ma anche no, io sono per la totale libertà di tutti. Sei a favore della poligamia? Sei a favore della poligamia, Saad? No, non sono a favore della poligamia. E allora non sei musulmano vero? No, sono musulmano vero, ma sono a favore del poliamore, come te. Che vuol dire se a favore del poliamore? Quella è una cazzata, quella è sono comportamenti privati, ma che non c'entrano nulla. Ma è un'idea mia, non sono a favore della poligamia. Allora che musulmano sei se non sei a favore della poligamia? Spiegami. Che musulmano adesso sei? Adesso sono in digiuno e non posso gridare, quindi fammi parlare. Le donne, che vuoi dire, Saad? Dimmi. Stavo dicendo. Ti devi arrendere, l'Italia ma del che futuro cosa mi devo me. Arrendere? A cosa? Arrenditi, ma che l'Italia cosa? Del futuro è mulatta, è senti, musulmana. Senti, Facci è stato costretto a non guadagnare per 2 mesi perché ha detto odio l'Islam. Vabbè, questo è. Mio amico Facci, odio l'Islam. Vita, non per 2 mesi, eccolo sto qua. Cretino. Eccolo qua, odio l'Islam, tutti l'Islam, cioè secondo te non è degno di guadagnare un euro per tutta la vita? Odio non l'Islam. È degno di guadagnare nulla per tutta la vita. Cioè, odio un l'Islam. Po' come te, anche tu non devi guadagnare nulla. Ma vai a fare il culo, tu Saad ed... Armi solo odio fra la gente, sei un cretino, Cruciani, sì, sei un cretino. Sì, odio l'Islam, tutti l'Islam. Grande Parenzo, non mollare mai, siamo non la maggioranza sto qui. Silenziosa. Ma quale so. Maggioranza vedi silenziosa? Questo c'ha 19 anni, Cosenza, ma ti rendi conto? La consapevolezza di cos'è il nostro bellissimo paese, dai, un paese in cui c'è spazio per te ovviamente e c'è spazio Cruciani, per tutti, bravo. Posso dire un'ultima cosa? Dimmi. Certo, dimmi, fratello mio. Dimmi. Io voglio essere come Parenzo, non come te che pisci nel lavandino. Ma questo che c'è educato anche. Lavati. Ma cosa c'entra questo? Vedi, pulito anche, musulmano lavati, è pulito. Sei un puzzone, Cruciani. Ma che ne sai? Sai, Sad? Io lo dice anche profumo, tu che non ti lavi, ma io Cruciani, profumo ma di mio, a prescindere dal fatto che non mi lavo. Profumo, capito? Profumo. Sì, profumi, profumo, sì, grande profumo. Infatti nessuno vuole stare vicino a te, puttone. Profumo è il titolo di un romanzo di Patrick Susskind che io lessi per la prima volta sul Corriere della Sera nel lontano 1985 a puntate. Patrick Susskind, Il profumo, leggetelo, straordinario. Bene. Vittorio D'Avellino. Vittorio. Pronto? Dimmi, Vittorio, dimmi. Allora, io vorrei innanzitutto salutare te, Cruciani, perché io la penso come te. Sì, su che cosa? E Parenzo, la penso come te in assoluto. Adesso no, e beh, insomma, tu offendi la mia intelligenza. Adesso ti faccio capire perché. Dimmi. Ad Avellino qualche giorno fa è accaduto un fatto abbastanza... Che è successo, Prano, ad Avellino? Che è successo? È successo che un uioncello insieme ad altri ragazzini stavano giocando con l'acqua perché fa caldo, ovviamente. Sì. Uno di questi si è bagnato e ha pensato bene di togliersi la maglietta per farlo asciugare. E che è successo? Se non che nei paraggi c'erano due musli, come diciamo sto... Muslim, come lo chiamo io, sì, muslim. Allora? Ah, c'è fatto voglione, hanno fatto nuovo, perché la loro religione non tollera la presenza... Sì, mi ricordo questo episodio, allora... Ah, e allora niente, non so se l'avete trattato. Sì, vabbè, ma insomma, piccoli episodi di cronaca. Sono piccoli episodi. Guaglione era mio cugino. Per te sarà piccolo. No, non so se è stato confermato. Ci rompevi il corno, bello bello. Come questo è interessante, aspetta dunque, Vittorio Avellino è praticamente lo zio, giusto? Lo zio di quel ragazzo che qualche giorno fa ad Avellino... si è tolto la maglietta a due musulmani, però bisogna verificarla questa cosa. Lo hanno praticamente picchiato. Se li avessi avuti vicino, sto cercando di tradurre, no? Se li avessi avuti vicino, che cosa avresti fatto, Vittorio? Va bene, esagerato, tradurre, sto parlando un italiano abbastanza... No, ma lo traduco per chi non è un'amica. Se l'avessi fatto, avrei fatto la cosa che tutte le persone che ragionano fanno. Se toccano i tuoi figlioli, i tuoi parenti, non credo che tu ti metta a vedere la scena. Per applaudire. Aspetta un attimo, fermo lì. Buonasera, benvenuti dalla vostra parte. Ti fanno andare a scuola? No! Adesso il capo ce l'hai, scuola non ce l'hai, niente non ce l'hai. Direttore pazzesco! Nella roba pazzesco! Non ce l'hai, niente non ce l'hai. Io vendere erba, dove la prendi? Malpensa, tutto viene di là. Da Bergamo, sì! Da Bergamo, vai all'aeroporto. E rapporto, Linate, Bergamo, Malpensa. E vendi l'erba. Bella roba pazzesca! Sì! A vendere l'erba. Io vendere erba, io vendere cana. Non ce l'hai. Cana. Non ce l'hai. Cana. Non ce l'hai. Niente, non ce l'hai. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Quanti soldi deve avere? Ma quelli che sono solo! Porca la puttana, andata a fanculo! No, Emilio, scusa, ma... perché si è arrabbiato con loro? Non avete rotto i coglioni! Siete delle merde! 15.000 euro! Ho rubato! Ma che è successo? Ma scusa, si è arrabbiato? Andata a fanculo! Mi fa sempre impazzire questa cosa qua di Fede a me. Lo sbrocco di Fede è una cosa che ogni tanto me lo ricordo di notte. Tra l'altro Fede oggi seconda condanna in pochi giorni. Mamma si è preso altri due anni per la storia del ricatto a Mediaset delle foto, delle foto hot, delle finte foto, eccetera. Ricatto a Mediaset. Ma povero uomo, altri due anni. Tanto in galera col cazzo che ci va. Col cazzo che ci va in galera. 86 anni. Emilio, resisti! Resisti, resisti! Cruciani, interessantissima la puntata di oggi e l'aria che tira di Parenzo, sì. Soprattutto quando lo inquadravano sullo sfondo tra il pubblico in prima fila c'era una figa pazzesca, una mora con due zinne enormi, e poi si atteggiava tutto con la bocca, faceva tipo la bocca a mandolino, mamma mia che gnocca, interessantissimo Cruciani. Ma chi era questa, scusami? Sommato di mente. malato di mente, perché è un povero miserabile malato di mente. Ma perché, ma insomma, scusa, uno che ti ha visto in televisione lo stai respingendo. Ma io non voglio questa gente. Ma cioè, non vuoi, ma non, non che fai, voglio, scegli, non ho sì, capito, è impazzito. Dai. Come in democrazia di scegliere chi deve votare. Ma non è vero, voglio, quello stava guardando, giustamente hai messo una figa in prima fila. Ma non ho messo niente, hai messo una figa in prima fila. Ma non ho messo niente, quel pubblico apposta, quel pubblico lì, che con una figa, gente per bere, ogni tanto, gente, ogni tanto c'è una vecchia. Ti permette, la signora molto per bene. La signora molto per bene. Ma chi è quella vecchia là? Si può invitare, invitiamola. Invitiamola, ti prego. No, è una signora molto bella, fantastica. No, ma invitiamo la vecchia che sta sempre lì. Vecchio sei tu, perché sei vecchio e sporco nell'animo anche. Ora, no, oggi ti prego, è una giornata, la vecchia. Non invitiamo quella nessuno. Quella è la numero uno. Quella eh? La tutelo io, perché altrimenti nelle mani. Allora, oggi è una giornata importante, importante. Perché? Stiamo scusa, per scrivere la storia. Ma qual è la storia? Oggi per la... Ma verrà bocciata, non passerà. Lo Ius Soli non passerà. Lo Ius Soli, cioè il diritto, chi ma nasce smettila. In Italia è italiano. Ma questo va. Deve essere il mantra. Legare la cittadinanza al sangue è una cosa bestiale. È una cosa come da in Israele, anni come 30. Fanno in Israele. Lascia stare, come fanno che quella in è un'altra storia. No, lascia è sempre un'altra storia. È sempre un'altra storia. Vergognati, è sempre un'altra storia. Sì, certo. È un'altra storia. Siamo in Italia. Però oggi voglio potremmo raccontarti... scrivere una grande sì. pagina. Vedremo. Voglio raccontarti un'altra storia, però. Quello che succede. Hanno pure contuso sì, con la ministra Fedeli. Vabbè, voglio ma dire, lascia oggi perdere. In aula, al Senato. Al aggredita. Senato c'è vita. C'è vita. Gente che c'è... urlava. Ma che gente che urlava? Ragazzi, è un dovere per i giovani ragazzi già italiani. Ci sono dei ragazzi che sono italiani. Tu vuoi che fermare un attimo? Cioè, fermati no, un attimo. Oggi allora, non mi fermo. Fermati no, perché un attimo. Oggi è una questione di civiltà. Oggi faccio la maratona oratoria, quella che faceva Pannella, o che faceva, ti ricordi, Buon Vecchio Buon Tempo, ad esempio, ecco, quel, dottor ecco. Pecora, no? E lui fece una volta, come Pannella meglio, però una maratona oratoria, cioè parlava per 12 ore consecutive a favore dello Ius Soli. Io questo voglio fare, una grande maratona oratoria, in cui qui, su questo palco, a questa radio, a Radio 24, passeranno da adesso fino a domani mattina, quando parla Milan, una maratona oratoria in cui verranno testimonianze ferie, comunque, di amici, vabbè. Compagni e compagni, musulmani, laici, valdesi, atei, uomini e donne dici? Che amano, imprenditori, cioè quella parte di paese vera e reale che oggi ti dice grazie, grazie ai migranti che arrivano, grazie alle imprese che aprono, che investono. Questa è l'Italia che dobbiamo rappresentare noi, non queste schifezze di sexy allora, shop, ragazzi, di vibratori, ma che c'entra? Collegamenti con... Io vi dico solo una cosa. Parenzo sta facendo una predica in classico stile sì. da radio predicatore americano, però a sinistra. Io vi dico solo una cosa, c'è sì. un equivoco colossale, c'è un equivoco colossale. Se sei contro gli Ius Soli, sei cioè chi nasce in Italia è automaticamente italiano. Certo. Aspetta, secondo gli Ius Soli è un fascista, è un salviniano, è un razzista, no, cioè, ma a è me fuori dalla storia, dei compagni di viaggio non me ne frega nulla. Se uno dice una cosa giusta, va benissimo che sia Hitler, che sia contrario, Mussolini, che un compagno Stalin. Di classe di tua figlia che è nato te qua non possa essere italiano. Te la devi guadagnare la cittadinanza italiana, te la devi guadagnare. Ma che cosa vuol dire? Te la devi guadagnare. Ma chi lo decide? Salvini, ma chi aspetta, lo decide? Aspetta, io ti voglio raccontare un'altra storia però qua. La storia di una grande stangata, di una meravigliosa stangata. Sì. È quella di Ismaele Lavardera, candidato del Vabbè. Polo sovranista a Palermo, il quale lo ha messo in quel posto anche forse alle persone che l'hanno votato, ma soprattutto alla Meloni, a Salvini, perché era tutta una truffa, era tutta una un grande gioco. Voleva fare un film con le Iene che si chiamerà molto probabilmente Il Candidato. Ha registrato conversazioni con chiunque, probabilmente anche boss mafiosi, candidati. Il candidato era tutta una finta, straordinario, anche se lui non lo vuole ammettere e sbaglia a non ammetterlo. Senti Salvini quando si presentò al comizio insieme alla Vardera, senti che cosa disse. Io ho scelto di essere non nella mia Milano ma a Palermo, al quartiere Zen, per sostenere Ismaele e ricordare ai palermitani che hanno una possibilità di scelta di liberazione l'11 giugno. Gli altri sono la stessa roba. Crocetta e Orlando, Cuffaro e Ferrandelli, 5 Stelle con le firme false. Quindi mi piacerebbe che Palermo tornasse a essere Palermo, soprattutto in periferia. Quindi Salvi, T'hanno fregato! T'hanno fregato! Benigno, sai chi è Benigno? Quello di Mary Benigni per sempre. Conosco io. No, Benigno, no, Francesco Benigno, era un attore Sì, di Mary per sempre. Sì, uno sì, che c'ha una faccia quasi da assassino. Mica è un assassino. No, ma una faccia molto caratteristica, una faccia da assassino, una faccia terribile, una faccia molto, molto forte dal punto di vista cinematografico. Benigno. Senti, che pare che oggi abbia picchiato, comunque abbia aggredito, secondo alcune versioni, lo stesso Lavardera. Era in lista, era in lista con Lavardera, ha preso 156 voti, incazzatissimo. A un certo punto si è fatto serio. Dice: Francesco, io non ho fatto questa campagna elettorale per diventare sindaco, ma per fare un documentario per fare scoprire a tutti la mala politica palermitana. Ho registrato tutti, Cuffaro, Miccichetta, all'insaputa di tutti, li ho registrati che dicono le peggio cose. Comunque ragazzi, se è così è un genio assoluto. Se è così è una genialità, però non è che adesso possono dire no, mi volevo candidare seriamente. Lo hanno fatto per fare un film e per sputtanare tutti. Va benissimo, non sarò io certamente a condannarli. Sì. Tutt'altro, però non ci possono pigliare per il culo, ragazzi. Benigno, Francesco Benigno incazzatissimo, senti. Ma che cosa stai dicendo? Cioè, io mi sto prendendo la cacca in faccia da 4 mesi per sostenerti. Ti sei alleato con la Lega e mi hanno massacrato. A un certo punto ho visto che la questione si stava facendo seria, gli ho detto: allora scusami, parliamo senza le telecamere, perché se tu vuoi parlare seriamente con me devi parlare senza le telecamere. Quindi c'erano le telecamere che riprendevano? Sì, tranquillo io, perché finché si parlava della campagna elettorale, quindi... E lui non voleva, insisteva su questa cosa. Allora, dove andiamo? Carlo da Treviso, vai Carlo. Sì, pronto, ciao. Dimmi Carlo, dimmi. Allora, prima ti è scappato una cosa, la famiglia del cazzo di Donnarumma. Sì, ma succede in 2 ore e mezzo di diretta, succede. Questa io te lo dico quasi da coetaneo, non so quanti anni tu abbia, non mi interessa, però... Modera un po' il tuo modo di parlare, perché poi ti scappano queste cose. Parli, io sono spontaneo, ho detto, diventato perfino odioso, cioè sì, non, Carlo, scontato. Se a te sono diventato odioso e scontato. Cioè, c'è una sola cosa da fare, mi interessa pure. Però se la cosa proprio... ti è insopportabile, siccome tu non sei né il mio psicologo, né mia madre, né mio fratello, né David Parenzo. No, Carlo, puoi anche parlare. Sei un incapace diventato. Va bene, d'accordo, ma tu puoi dire quello che ti pare. Sì, d'accordo. Nel descrivere la famiglia di una persona, cioè ti viene in automatico una famiglia del cazzo. Cioè, ma questo non sei il mio psicologo. L'anno prossimo. Da questa trasmissione non te la fanno fare più. Sì, bravo. Perché sei fate diventato... un applauso a Carlo, dai. Fate un applauso a Carlo. Sei un incapace. Ma bravo Carlo. Guardati dentro. Eccolo psicologo. Se vuoi parlare di calcio. Sì, ecco, arrivato quello che dirà: non sai niente di calcio, rivolgiti a qualcun altro. Cerca di informarti. Carlo, posso dire una cosa molto semplice? Posso dire una cosa molto semplice? Siete diventati dei Gianni e Pinotti. Guarda che è un complimento. Ci stai facendo un complimento se ci dici così. Ma ci sono simpatici anche Gianni e Pinotto. Allora, Carlo, posso dire la verità, quello che penso di te dopo tutto questo excursus che hai detto? Posso dire quello che penso? Sei un coglione. Io lo penso sul serio, coglione tu. A me mi pagano per essere un coglione, coglione però. A me mi danno un sacco di soldi per essere un coglione. Mettimi giù. Capito? Ma a me me ne danno di più dei tuoi. Ma non lo so, per fare altre cose, non per fare il coglione. Devi fare finta. Sei un incapace, mettimi giù, cretino. No, veramente non ti sto mettendo. Rimanga con noi ancora. No, non ti sto mettendo giù. Rimanga con noi ancora. C'è da fare. Butti giù lei. Allora, continuate. E allora, no, Buttami giù, tutti e due, uno peggio dell'altro. E l'anno prossimo, senta, professore, non te la fanno fare non più. Non la fanno fare più, sì, no, certo, c'è giusto. Dubbio, sì. Ma quando commettiamo? No, sono altre trasmissioni che hanno cancellato in realtà. Qualcosa altro è successo, ma insomma, lei esattamente, professore, di cosa si occupa in genere? Ma intanto voglio dire, questa cosa che misurate una persona attraverso il lavoro che fa. Ma chi l'ha detto? Chi la misura? E così per chiacchierare un attimo, telefonando, possiamo sapere. Disdicevole. Lavoro in una concessionaria d'auto, vendo automobili. Ottimo. Vendi automobili. Benissimo. Ottimo. Un lavoro come un altro. Assolutamente. No, ottimo, bene, fantastico. Ottimo. Allora, qual è il problema? E allora nessun problema. Che ti ho detto che non faccio né il falegname e neppure il camionista. No, adesso con grande serenità, con una carezza, con una gentile carezza, vai a letto, vai con una mi hai dato del coglione. No, io ti abbraccio, sei un coglione. Sì, bravo. Prendi una tisanina, vai a letto, fa un po' caldo, tisana, letto caldo, tranquillo, così domani ti svegli più tranquillo. L'ultima cosa, Giuseppe. Sei un coglione, però continui ad ascoltare. Ciao, ciao. E allora dai, le cose giuste colleghiamoci da un campo Roma. Allora dai, e allora dai, quando chiamiamo la Vardena, dai, negro l'ascolto fai. Chiamiamo la Vardena. Non è tutto, è una frase che si dice. Sì. Ismaele, sei un genio, sono Cruciani, ti voglio dire che sei un genio. Grazie. Sì, però una cosa, bisogna dire, non è che puoi dire che era la campagna elettorale, stavi filmando la campagna elettorale. E sicuramente io, nella mia idea, è quella assolutamente di cercare di dare un senso alla giornata. Io davo a Maramena che mi girava con i pochi mezzi che avevo, caro Cruciani, io assolutamente filmavo la campagna. Ho capito, ma l'obiettivo era fare un film sin dall'inizio, cioè era una sorta di stangata meravigliosa nei confronti dei partiti che ti hanno candidato. No, ma guarda, io, cioè, la mia idea iniziale era di fare il sindaco, io ho fatto di tutto per fare quello, ma è chiaro che in corso d'opera, essendo un giornalista, mi sono reso conto, ma con tutto questo materiale che abbiamo raccolto, dai, filmati, tutto quello che può competere una campagna elettorale, puoi immaginarlo, ci siamo guardati, Davide Parenti, ci siamo detti, ah, perché non potete fare un racconto di questo? Cioè è venuta prima la candidatura e poi la decisione di fare un film? Sì, assolutamente, addirittura la candidatura al sindaco, se tu vai indietro con la memoria da luglio, mi è stata proposta addirittura, io non ho deciso di candidarmi a sindaco, questo è un passaggio fondamentale. Scusa, ma sono tutti incazzati però, la Meloni, Salvini, ti vogliono denunciare. Attenzione, i comitati civici, che è un gruppo di un consiglio comunale a Palermo, mi propose di candidarmi a sindaco, non è stata una scelta mia di candidarmi a sindaco. In questo momento... Vabbè, adesso io il dettaglio, diciamo, dei passaggi non lo conosco. Secondo te l'hanno proposto? Cioè, tu hai mai parlato prima con Meloni, ti ha chiamato qualcuno, la Meloni e Salvini, per dirti candidati? No, io allora Salvini nello specifico l'ho incontrato e abbiamo parlato e lui stesso mi ha lanciato un appello in diretta sulla feste dicendomi ho saputo della candidatura di Ismaele La Barbera, mi piacerebbe fare strada con lui. Fuori uno, quindi Salvini, non è che ho cercato Salvini per dire Salvini mi vuoi candidare? Tu mi stai dicendo che prima è nata l'idea di candidarti e poi successivamente vi siete messi d'accordo con Parenti, con le Iene, per fare questo film, così? Devo fare il sindaco fino alla fine, io quello è. Se io da infatti avessi come... Però scusa, perché tutti parlano della truffa, di questa mega truffa? Guarda, scusami, però io, è fondamentale questo passaggio. Se fossi stato eletto sindaco, facevo il sindaco senza problemi. Beh, ho capito, ma era impossibile, Ismaele, dai, no, su. No, come era impossibile? Ma dai, io ho fatto su. Di tutto perché questo accadesse. Ma ho capito, ma uno, certo, facendo la campagna elettorale, uno dice voglio fare il sindaco e dice non lo voglio fare. Però era chiaro che... È evidente che nel momento in cui tu raccogli, come io facevo, cioè io nell'era dei social dove la politica... a dei costi, purtroppo io non avevo i soldi per fare la campagna elettorale, non ho messo in campo quello che sapevo fare meglio, no? Cioè i video sui social è su quello. Ma scusa, quelli che ti hanno votato e che adesso dicono scusa, questo qua si è candidato ma in realtà voleva fan film e sono tutti incazzati magari, o no? Questo ma sono incazzati, ma abbiamo spiegato, io ho spiegato in modo preciso anche attraverso un video che non ho preso in giro assolutamente nessuno, ho voluto fare un documentario sulla mia campagna elettorale ma correndo in campagna elettorale. Scusa, però mi posso permettere? È la politica che è screditata, no? Cioè la politica che è buffa. Attenzione, perché è fondamentale. Io ho fatto di tutto, cioè dai comizi al giro del Latino per la città di Palermo. Ma questo è chiaro, questo dovevi far film, te credo. Dai, su Ismaele, dai. Ma io no, non hai. Ma guarda che per io ti ho detto all'inizio, sei un genio, perché è una cosa geniale, è una stangata, certo. Però una stangata è. Ma hai preso soldi in campagna elettorale? Hai raccolto molti soldi? Assolutamente no. A me né il partito di Salvini, questa cosa ci tengo a dirla, né il partito di Salvini, né il partito della Meloni mi hanno dato un euro per la campagna elettorale. Però c'era un IBAN dove si potevano versare. Ma io ho chiesto liberamente ai cittadini qualora. E quanti soldi sono arrivati? Saranno intorno alle 1.000 euro. E come si possono quantificare? Ma li vuoi ridare? 1.000 euro, a parte che non me l'hanno dato i cittadini, ripeto, ma sono stati dei soldi che mi hanno dato in prestazione, per cui gli unici soldi che ho ricevuto, gli unici soldi che ho ricevuto sono 500 euro da parte di amici, di alcuni amici di Milano. E allora queste persone dicono che si sentono offesi da questa cosa, e non credo, perché non si sentiranno offesi, anzi saranno, come dire, più contenti e vorranno votarmi ancora di più. Io sono pronto a... Hai menato Benigno? Cioè, scusami, no. Ti ha menato? Ho ricevuto un'aggressione, assolutamente sì. Cioè? Perché nel momento in cui noi abbiamo giustamente detto, perché in assoluta trasparenza alla fine di questo, a ridosso di questa notizia, volevamo dire a tutti: guarda, noi abbiamo fatto questo documentario, dateci la liberatoria per far questo. Sì. Ci sono state persone che hanno detto: assolutamente non abbiamo da nascondere, avanti. Sì. Benigno invece non l'ha presa assolutamente bene. Cioè, che cosa ti ha fatto? Non l'ha presa bene, praticamente ha distrutto due telecamere che avevamo, e praticamente mi ha dato una sberla che è un po'... Diciamo, niente di grave, però, come dire, non l'ha presa bene, cioè, oggettivamente. Però dico, noi... Cioè, ma sei andato in ospedale? Ieri sera sono andato in ospedale, perché non è giusto che fosse, sono intervenute le forze dell'ordine. Lo denuncerai? Se noi ci riserviamo di fare questo, ma credo proprio sì, perché non è possibile che una persona comunque vada, al di là di ogni cosa, le aggressioni fisiche non vengono mai e non possono mai essere accettate. Senti, ma io ci dire, Cruciani, è fondamentale. Dimmi. Io in questa campagna elettorale non ho preso in giro i cittadini, perché i cittadini... Ho capito, amico mio, però se poi viene fuori, se poi viene fuori che c'è la grande stangata organizzata dalle Iene, qualcuno si può incazzare. Guarda, a parte che le Iene in questa faccenda, io ne ho parlato con un fraterno amico, Davide Parenti, che lui nella vita fa l'auto delle Iene, ma non è le Iene fisicamente in questa storia. C'erano microfoni nascosti? Chiaro che ho raccontato in questa campagna elettorale tutto quello che andava a raccontare. E presto speriamo di mettere insieme un buon risultato e di raccontare. Ma hai incontrato pure personaggi controversi che ti volevano offrire dei soldi, boss, mafiosi, cose di questo tipo? Luciani, sarà tutto molto evidente. No, va bene, però la cosa che voglio sapere, va bene, la cosa che non mi risulta ancora, tu puoi fare quello che io ti ho detto all'inizio, per me se avete fatto questo è un colpo di genio e non è quello il punto. Il punto è un altro, bisogna dirlo però, non è che puoi dire no, io ho fatto la campagna elettorale. Nel momento in cui, no, attenzione, perché se avessi detto, ti faccio un esempio pratico, la settimana prima delle elezioni dicevo, guarda ragazzi... No, ma dirlo adesso, non... Prima no, adesso uno deve dire, guarda, mi sono candidato per raccontare che cosa significa fare il candidato da Palermo. Cioè, devi rivendicare questa cosa. No, non la posso, perché dobbiamo rivendicare? Nel momento in cui io ho fatto di tutto per essere eletto sindaco, perché devo rivendicare una cosa? Ma perché il vero, perché l'obiettivo era fare il film, dai, su. No, ragazzi, perché la mettete così? Ma no, ma non è strano, ma non è una cosa. Ma io ho fatto di tutto per essere eletto sindaco di quella città. Io credo in questo momento che la politica non ha nulla da nascondere. Ragazzi miei, la trasparenza è prima di ogni cosa. Ma ho capito, d'accordo, dice, però... C'è qualcuno che dice che vuole aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno. Allora noi non abbiamo aperto la scatoletta di tonno. Lo apriamo, diciamo, con tutta la scatoletta e sono... Cioè, ragazzi... Cioè, beh, l'hai aperta un po', l'avete aperta, hai aperto la scatoletta. Ho aperto la scatoletta. Vabbè, buono. Ismae. Ciao, Cruciani. Ciao, buon lavoro. Ciao. Poltrini, scusami, sei una brava ragazza. Poltrini, sei un'amica dei cristiani ed è morta. Intervengano i commessi. Poltrini, ed è morta. La zanzara. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Pronto! Sai cos'è che non sopporto dalla vicenda di Lavardera, delle Iene e di questa stangata, come l'ho chiamata io, a Salvini, alla Meloni? Il fatto che adesso dicano, Lavardera stesso pochi istanti fa da noi qui alla Zanzara: no, ma io avevo pensato prima di candidarmi a sindaco e dopo, in corso d'opera, abbiamo raccolto... Ma scusa, uno che si candida sindaco non è che gira con le telecamere dietro, ma quando mai si è visto? Dai, su, ragazzi. Beh, no, però è vero che, ad esempio, come tu sai, Macron, quando si candidò... Capito, ma le portano gli altri, le telecamere. Questo era circondato da persone... C'è quel bellissimo documentario che è andato in onda su Skype. Sì, ma cosa c'entra? Macron è una candidatura vera, no. Però. Cioè, ma cosa c'entra? No, ma per dire, non è così strano che uno si porti dietro le telecamere, per dirti solo questo. Ma tutti si portano dietro uno con una telecamera, no, magari. Ma addirittura voglia fare un racconto della propria campagna elettorale. Questo non mi sembra strano di per sé. È andato a trovare anche Cuffaro, che adesso dice, adesso ho capito perché. Ma scusa, non è che vai a trovare Cuffaro in campagna elettorale. Ma sono furbetti questi qui, però, che sono cascati. Che colpe ne ha? Sì, ma sai, in campagna elettorale c'è uno che è candidato e ti dice ci vediamo perché voglio dei consigli. Quello poi c'ha la telecamera nascosta e chissà che cazzo estrapolano del discorso con Cuffaro. Ma no, ma va benissimo, sono dei geni, va benissimo tutto. Però il problema fondamentale è che adesso non ci possono raccontare la cazzata che hanno deciso prima di candidarsi e dopo di fare il film. Dai, su, sì, questa è una non sciocchezza. Siamo tutti coglioni, dai, su. Cioè, non è che queste cose le decidi così, le decidi prima, le progetti, le pianifichi con le telecamere, con la gente che ti protegge, eccetera, eccetera. Tutta una roba pianificata. Non ci raccontate cazzate, non ci raccontate cose ipocrite. È una meravigliosa stangata, che stangata sia. Massimiliano dalla provincia di Chieti, poi ti faccio ascoltare un Mauro Domantova che mi ha mandato 100 messaggi scatenato. No, Massimiliano, ma no, no. È un'epoca finita quella. No, ma che epoca finita? Ma cioè, siamo già in una nuova era con lo Ius Soli. È una nuova era. Ma devi adeguarti, Massimiliano, a capire che dai una rappresentazione sbagliata del paese. Va. Fallo sentire come si facevano vedere i dinosauri ai bambini, no? Ma quando, i bambini studiano i dinosauri a scuola. Mauro Domantova è uguale, appartiene a quell'era lì, dinosauri. Massimiliano, ci sai, una volta la terra era popolata dai dinosauri. Sì, prego. Fallo parlare. Scusa. Buonasera, voglio intervenire un attimo sul discorso dello Just Sola o vai. Soli, come si dice Sola? Sola, secondo quelli che lo avversano naturalmente. Soli, perché sarebbe suolo. Per me lo Just Sola, esattamente. Io penso che Parenzo propugni lo Just Sola anche un po', come dire, in contrasto a quello che è la sua religione, penso sia ebreo, se non sbaglio. Se come pensa Cruciani, giusto. Sì, come Cruciani ha detto poc'anzi, purtroppo mi ha spoilerato, come direbbe mio figlio, in Israele pare che dicano just sanguinist, se non sbaglio, giusto? Ma sì, ma alcuni paesi regolano le cose in questo modo. Chi si oppone a questa roba non è un fascista. Che cosa vuol dire? Non è un fascista, chiaro. In Israele non esiste questa cosa. Quanti paesi? È lo Stato ebraico, cosa vuol dire? Cosa c'entra? Niente. Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra con? Ma non vuol dire niente. Ma come non vuol dire? Fate il paragone con Israele quando vi fa comodo. Alcuni paesi, no, alcuni, ma io lo faccio sempre. Alcuni paesi regolano la questione della cittadinanza in un modo, altri paesi la regolano in un altro. Punto e basta. Non è che chi non ha lo Ius Soli, cosiddetto Ius Soli, che alcuni definiscono Ius Sola, sia un paese fascista, razzista, seguace di Hitler, Salvini, di Mussolini. Semplicemente regola la questione della cittadinanza in un altro modo, punto e basta. Perché dovete classificare quelli che si oppongono a questa cosa? Lascia stare il pandemonio che è successo in Parlamento. Ragazzi, sta cambiando tutto. Non l'avete ancora capito. Quello che mi preme, sta scusi, cambiando tutto. Non l'avete ancora capito. Massimiliano, vai, dimmi, concludi, vai. No, è la coerenza. L'importante è che poi Parenzo definisca Israele uno stato illiberale. No, ma perché dovrei definirlo tale? Anzi, perché stai facendo una battaglia. Israele di... ha un problema di sopravvivenza in quanto unico stato, diciamo, democratico in mezzo a un sistema, come dire, feudale e antiquato. Siria, Iraq, Libano. Ma cosa c'entra? Vai, su, Iran, ma non c'entra niente, eccetera. Ti stai arrampicando sugli specchi. No, ma è una realtà geografica. Ci sono altri paesi che te la fanno sudare la cittadinanza. Non c'entra niente che sei nato lì. Io non voglio togliere niente a nessuno, non c'entra niente con la cittadinanza. La cittadinanza è un'altra storia. Giuseppe da Bergamo, dai. Parti, sono molti palestinesi che hanno la cittadinanza israeliana. Come sai, in America poi sono molti che fanno i paraculi, vanno là per nascere americani. C'è un motivo, sacco perché di lo fanno? Certo. Perché vogliono andare a partorire lì. È utile avere la cittadinanza perché americana. E come mai non lo chiedono in Iraq? Giuseppe da Bergamo. Come mai non vanno in Egitto a partorire? Chiedetelo tu. No, io me lo so perché. Giuseppe perché da Bergamo, stanno meglio in America, cazzo a nessuno. Vanno dove c'è la felicità. Giuseppe, vai. Sì, pronto. Dimmi. Buonasera. È da un po' di tempo che mi chiedo come faccia una persona come Parenzo, così acculturata, così apparentemente intelligente, ad essere umiliato tutte le sere. Sì, ma non è affatto umiliato. Ma chi te l'ha detto che è umiliato? No, se si sentisse umiliato se ne andrebbe, non si sente affatto umiliato. Proprio questo è il punto. Secondo me... ha messo in vendita la sua dignità per forza, perché è l'unico motivo per il quale uno subisce una cosa del genere. Ma cosa subisce? Di che stai parlando? Adesso ti faccio sentire cosa subisce. I colori, e allora che c'entra? Risponde, combatte. Un minimo di dignità una persona dovrebbe averla, dovrebbe almeno essere coerente. La dignità non ce l'ha chi telefona. Maniera, dovrebbe prendere e andarsene. Altrimenti, ma che c'entra? L'unica motivazione per la quale lui rimane in quel posto è perché ha un buon contratto. Ma cosa c'entra? Ma tu non capisci. Ma lo sai che non capisci un cazzo? Tu nulla capisci. Nulla. Non capisci nulla. Non solo non sai nulla, ma non capisci un cazzo. Continui ad ascoltare, per cortesia. No, ma volevo dire. No, ma non sai nulla, niente, zero. Cioè, non sai niente. Ti metti nella testa delle persone. Io non starei al posto di Parenzo. Ma sono cazzi suoi. Mi dispiace per lei, peccato per lei, perché guardi, non è poi così male. Insostenibili. Vabbè, lo vedi che entri nel merito, però. Cioè, certo che entro nel merito. E allora che vuoi? L'argomento è questo, non è quello di Parenzo. Un consiglio mio riguardo lui è quello di andarsene a casa, perché non può una persona. È un parere. A casa mio, dove? A casa è dove vado? Dove faccio a casa tutto il giorno? Figli, magari un domani, sai. Quello che invece io vorrei cosa faccio a casa tutto il giorno? Dopo 40 anni di lavoro, 6 giorni mediamente alla settimana, con una piccolissima impresa, 11 ore al giorno di media, tutto quanto, di andarmene fuori dalle palle, andarmene all'estero, perché non è brutta la notizia che ci ha dato, portati avanti da questi perbenisti del cazzo come Parenzo, che difendono ad oltranza persone Le piace, comunque hanno bisogno, per l'amor di Dio, ma non hanno assolutamente un diritto come chi ha creato e ha sostenuto questa nazione. Uno se ne ha piene le palle e non crede più in questa nazione. Quando parte per l'estero? Quando va? Quando se ne va? Sì, ma guarda, prima di partire, vengo e ti do un calcio nel culo. Ah, finalmente la voce. Oh, finalmente il moderato. Finalmente. Ma guarda, non quando vedo se ne va, però? Che mi voglio togliere. Ci può telefonare quando se ne va? Ha dato un calcio nel culo. Almeno sicuro. C'è un pirla di meno su questo, in questo paese. Avanti, dai, ci sono tante persone per bene che stanno arrivando. Quindi, figurati. Questa è la cosa più importante. No, ma neanch'io, figuriamoci. Sì, sono molto felice. Ma veramente. Sarei anche disposto a pagare un calcio in culo. Perché gli vuoi dare un calcio in culo? Non ho capito. Di quelli come te che portano avanti argomenti assurdi. Assurdi. Ma quando se ne va? Ma quando è che se ne va? Quando se ne va? Glielo posso pagare io il biglietto Ryanair, quando è che se ma ne va? Certamente, ma one guarda, way, perché solo, una, solo una tratta. Ma prima vatti a bere un bicchiere di champagne, perché sai, i radicali quello lo faccio anche stasera, sono a una cena, spero ci sia champagne, penso di sì, però sì. Io mi chiedo come facciano a tenere, come faccio? Ma veramente, ma anch'io ve lo chiedo. C'è un po' una contraddizione. Esatto, in contraddizione. C'è una contraddizione, prima dici dovrebbe andarsene dal programma, se ha un minimo di dignità, perché non può stare insieme a un ignorante come me, perché lo calpesta ogni giorno, e poi dice che dovrebbe andarsene per quello che dice. Ma sei impazzito, Giuseppe? No, ma perché lo vuoi picchiare? La cosa che mi domanda, perché lo vuoi picchiare? Perché lui può dire ciò che vuole. Ma perché lo vuoi picchiare? Ma perché? Ma è una mia soddisfazione personale, guarda. Sì. Io non ho mai picchiato. Ma lei quando è che se ne va? Ma lei quando è che se ne va dall'Italia? Ma quando è che va, però, lei intanto? Mi dia sta notizia, sta gioia. Prima passo da te. Sì, ma mi dia sta gioia. Quando? Mi dia una data, che così almeno stappo una bella bottiglia. Guarda, prima possibile. Oh, benissimo. Dai, che ce n'ho una in frigo del 65. Che è da 20 anni sono da me, sono extracomunitari, hanno fatto tutta la trafila. E cosa me ne frega a me dei suoi dipendenti? Per la loro dignità, perché hanno fatto tutta la trafila, te lo ripeto un'altra volta, ora sono cittadini italiani, sono sposati, hanno una famiglia. No, ma è giusto quello che dice. Uno è addirittura è giusto quello che dice, che la cittadinanza italiana te la devi guadagnare. Perfetto. Te la devi guadagnare. Non che se nasci qui perché magari dai, cosa vuol dire, ragazzi? Belli, su. Straniera, e hanno fatto tutta la trafila. Tu non puoi dire certe cose. Ciao. Allora, ragazzi, Mauro da Mantova scatenato contro David Parenzo. Non è nuovo. Non questo. È una novità. Però sta prendendo una china molto molto pericolosa, te lo dico, caro Mauro, tu ogni tanto attacchi anche me, però alla fine io un po' ti voglio bene. Per nulla. Sta prendendo una china pericolosissima questa cosa, pericolosissima, quasi da avvertire le forze dell'ordine. Begleque, Parenzo coglione, ti insegnerò io l'educazione, ma non a parole, a sberle. Coglione, te ne do, che ti voglio far sputare sangue da quella bocca e naso di merda, pezzo di coglione. Io non sono Donato da Varese, io non sono virtuale, io sono reale. E se non sono ancora venute, perché grazie a quel bastardo di Monti, De Benedetti, Prodi e Napolitano, non ho più un lavoro, grazie a sti quattro bastardi. Ma vedrai che la ruota cambia, coglione, e mo dopo c'ho un cazzo i tuoi, merda! Ma scusa, ma perché dice? Ma sì, mi si capisce che adesso lavora per colpa di Monti. Prima o poi gli levano la pelle questo, sì, questi qua. Sì, sicuro. Gli levano pure quella... Gli levano tutto quello che ha, quel poco ancora, che continua, ha, poverino, ma... Continua. Ancora, Bastardo di un coglione di Parenzo. Mi viene da ridere quando dice peggior nemico Donato da Varese. No, è un nemico che ti conviene, perché lui è virtuale. Io non sono virtuale, io sono reale. E prima o poi, anche se grazie a quel bastardo ebreo di Monti, quel bastardo ebreo di De Benedetti, Prodi e Napolitano, gli altri due bastardi, io non lavoro più, perché questo è, io prima o poi ti vengo a prendere e te le do di santa ragione, ti faccio sputare sangue, bastardo figlio di puttana. Ma guarda che è uguale, allora, al personaggio, sì, di Crozza, sì, uguale, esatto, però precisiamo soltanto due cose. La prima, Monti non è ebreo, ecco, non volevo solo precisare, non c'è bisogno, però lo so, però sai, lui ogni volta insiste su questo e non vorrei, appunto, sì ma Monti... no, ma chi se ne frega. Comunque, dai, martedì, come sarà ospite da me, dovrebbe essere ospite da me, quindi gli chiederò questa cosa, no, così proviamo definitivamente questo aspetta dubbio. Ma non è finita, eh? Secondo, non è finita, ok, chiedo scusa, prego, sentiamo ancora, agevoliamo l'audio. Parenzo, faccio fatica a stare calmo, faccio fatica a contenermi, ma ho mandato giù una volta, ho mandato giù due, ho fatto 30, faccio 31, faccio anche 32, ma tanto mettitelo in quella testa baccata di merda dove dentro c'hai delle formiche, prima o poi tu da me le prendi, non ti preoccupare, ti meno, ti massacro di schiaffi, pezzo di merda. È inutile che tu dici, peggior nemico Donato. No, ti fa comodo Donato perché è virtuale. Io sono reale, faccia di merda! Sto guardando Coffee Break. Ora sono 11:05, sono andato a vedere su TG24, guardo l'aria che tira, spengo il televisore. Ok? Coglione, non ti guardo, pezzo di merda! Non ti do nemmeno un secondo di audience! Pezzo di coglione, e prima o poi ricordati, faccia di culo, che le sberle da me le prendi, e tante anche, bastardo coglione figlio di puttana. Cioè ormai a parte che sta tutto il giorno davanti alla televisione, tutto giorno, poveretta, tutto quello, giorno, oppure tutto alla giorno. Radio. La seconda cosa che voglio dire, da oggi io non pronuncerò mai più il nome Mauro Davanti. No, perché la cosa che no, lo manda, sì, ti spiego perché la cosa che lo manda di più ai matti, lo fa strippare, è il confronto con Donato da Varese. Sì, esatto. Ora, siccome quello è il cosiddetto derby degli imbecilli, lo potremmo chiamare, no? Totalmente. No, cioè, noi abbiamo c'è il derby Milan Inter, Roma Lazio, eccetera. Qui alla radio c'è il derby degli idioti. Bene, uno è più idiota dell'altro, cioè indubbiamente Donato da Varese molto più, è più intelligente, più sviluppato, diciamo, uno è l'Homo sapiens sapiens, l'altro è Neanderthalis, cioè siamo sempre in quell'ambito lì, no? Però uno è vagamente più sviluppato, cioè uno ad esempio ha imparato a accendere il fuoco, l'altro è ancora fermo all'età della pietra, tra i due però, quindi io adesso per farlo strippare, per me non esiste più Mauro D'Amanto, mi è solo Donato da Varese, questo lo manderà ai matti ancora più, perché lui più volte ha ripetuto, io sono quello, sì, vero, sì, no? Certo. Quindi è un derby degli idioti, nel derby dei coglioni, quello un po' meno coglione è Donato da Varese, che almeno ha quel minimo di acume in più, cioè sa accendere il fuoco, l'altro è fermo all'età della pietra. No, tu sei la merda! Tu non conti un cazzo! Sì, strepita, non esisti più ormai per me. Cruciale, prima mi chiede scusa, poi avrai i miei parlati. I miei parlati non ne beccherà più, fidati. Possono mandargli gli iscritti, ma non i parlati. Parlati zero. Scusa, mi è sfuggito. Questo morotto che mi è sfuggito, ma sto mangiando. Parenzo. Sono Parenzo. Quali sono le soddisfazioni che le dà questo animale? È che una bella bestia. Pagato dal Mossad. Pagato dal Mossad. Parenzo. È che una bella bestia. Pagato dal Mossad. Pagato dal Mossad. Sono Parenzo. Vabbè, c'è la soddisfazione dell'animale. La zanzara. Tu sei una pezza di merda, sei. Miserabili. Ciao, non è per dire, Ma tutte le belle donne che hanno i piedi brutti, se volete vi aspetto. Che cazzo me ne frega dei piedi? Basta che sono simpatiche. Beh, vabbè, poi sono anche antipatiche. Basta che te... che sono belle. E troie, quello, altro che i piedi. Che cazzo te ne fai dei piedi? La donna bella deve essere troia. Cruciani, ma che guardare i piedi d'affinata, ma ci scasso cazzo, Cruciani, il culo, la risposta è nel culo. Ciao ragazzi, volete sapere qual è un bel piede? Per farvi capire, vi faccio un nome che conoscete tutti, premiata più volte, 3 anni di fila se non sbaglio, come miglior piede, come miss piede, la signora Caterina Balivo. Fidatevi, io me ne intendo di piedi da anni, ancora prima di diventare crucianiano. Quello è un signor piede. Viva i piedi delle donne! Poca figa massaggio. La zanzara. Più soli. Ma ci vorremmo rendere conto che se dovesse passare questa legge i barconi si riempirebbero di donne incinta? Ce ne rendiamo conto? Oppure no? Parenzo, che dici? Le paure degli che italiani. Stupidaggine, ma che stupida. Le paure degli ma italiani. Ma quali italiani non hanno paura dello Ius Soli? Hanno pure dei che ne dementi, sai che non ma te lo dico che io. Sai, che lo sai tu ma se l'Italia hanno paura è normale, o no? Ma ti pare che possono aver paura dello, di un bambino che arriva qui da sbarca a Lampedusa, paura, di un bambino. Cosa c'entra? Ma dai, di cosa possono su. Avere? Dovete avere paura della paura di questi minchioni, dovete avere paura di questi poveri miserabili che telefonano e che dicono finirà l'Italia, finirà, ma voi siete finiti perché siete gente ormai che non ha niente da dire, dai, ma allora, prima di Dino mondo da Genova, siete, aspetta, siete, prima siete il paleolitico. Oh. Tu sei una persona da studiare in laboratorio, oh. Come si studia il tiranno Rex. Tu sei completamente uguale, rincoglionito, uguale. Guarda, cioè. Il futuro è lo Ius Soli, anzi siamo già in ritardo. Siamo già in ritardo perché in classe di mia figlia ci sono dei bambini, ad esempio, che vengono da altre zone dell'Africa. Prima di diventare italiani non faranno il loro corso, faranno il loro devono, excursus, faranno ma quale excursus devono fare? Ma perché in altri paesi è così? Salvini quelli lì, no? Che almeno vanno a scuola. Oliviero. Saranno più italiani dei leghisti quelli là. Oliviero Toscani, eccolo qua. Da Cava dei Tirreni. Oliviero, ciao. Sì, state bene. Vedo che litigate sempre. Ma scusami, sono contento. Ma uno perché per forza deve dire? Uno dei due sicuramente ha torto. D'accordo. Tu sei a favore dello Ius Soli? Ma per forza. Ma sono a favore, ma dico. Sei super a favore. Te lo sei meritato di nascere in Italia. Bravo. Ma che c'entra? A parte che non so se è un merito. Esatto. Sono nati qui tanti di quei teste di cazzo che non se ne finisce più. Quindi, capisci? Cioè, molti italiani sono teste di cazzo. Ma sicuramente. Mamma mia, sono nati qui, pensa. Votano Lega. Teste no, di vabbè, cazzo votano Lega. Io voglio dire una cosa. Io voglio dire una cosa. Scusami, tra Salvini e italiano. Un altro, vabbè. Cioè un immigrato che arriva. Secondo te, più diritto di essere italiano di Salvini? Molto più, almeno arriva qualcuno intelligente. Vabbè, ho capito. Però voglio dire, uno non può le motivazioni per questa roba qui. Io, secondo me, te la devi guadagnare la cittadinanza italiana. Ma guadagnare bravo. Cosa? Ma cosa ti sei guadagnato? Te la devi guadagnare tra tuo papà e tua mamma. Che cosa ti ho capito, ma funziona così. Appunto. Ma funziona così. Ma cosa ti sei guadagnato cosa? Vabbè, ma ragazzi, Oliviero, però che ci si guadagna Rina, tutti gli stati Rina, hanno Rina è un bravo cittadino italiano, forse. Ma di che parlate, ma dico, ragazzi? Ma dai. Non è importante. Cioè, tu dici noi abbiamo tu dici scusami Oliviero, tu dici noi abbiamo Rina, abbiamo che ne so, tutti i mafiosi. Abbiamo no, se ti faccio una lista, andiamo dimmi la lista dei peggiori italiani. Secondo te, i peggiori? No, ma non te lo sai benissimo. No, dimmelo dai. Tu, dimmi la lista ma dei peggiori italiani. Teste di cazzo di italiani. E che, dimmelo te, i mafiosi, poi dimmi i leghisti. Madonna, poi tutti corrotti, tutti quelli che hanno. Che per esempio invece di chiudere i campi rom, dovrebbero chiudere i campi da calcio degli hooligan, dovrebbero chiudere. Chiudere tutte, dovrebbe forse chiudere anche una parte del Parlamento da noi. Addirittura. Prima del campo rom. Sì, prima, sì, meglio prima chiudere il Parlamento prima del campo no, rom. No, non tutto, ma una parte del Parlamento è peggio di un campo rom. Cioè, oggi è successo pure un casino al Senato con i leghisti che hanno messo i cartelli in mano, eccetera. Ma tu cacceresti i leghisti dal Senato? Non li faresti più presentare per indegnità al Parlamento? Ma no, io non voglio, io non faccio queste robe qui, no. Beh, che purtroppo, purtroppo quelli che sono i nostri politici sono esattamente l'immagine dell'Italia. Esatto, niente sì. a fare. Non esatto. è che abbiamo fatto un colpo di stato, eh? Esatto, sono esatto, l'immagine esatto. dell'Italia. Quindi, ci meritiamo questa cosa qua. Pure là dove sei. Li votiamo, li scegliamo. Ma scusa, perché non butti via il passaporto italiano? Che cazzo ti frega? Diventa straniero. Se pensi che gli italiani siano indegni, butta via il passaporto italiano. Ma non ho detto. Cioè, ti fa schifo o no il passaporto? Non generalizzare. Ma non tu generalizzare. Hai detto in Italia ci sono tante teste di cazzo. Ci sono milioni di italiani teste di cazzo. Va bene? Ho capito, ma quelle sono italiani che non lo sono. Ma chi lo decide, secondo te? Scegli tu cosa vuoi essere. Ma cosa vuol dire? Che italiano vuoi essere? Senti, a proposito, però io ti volevo chiamare per un'altra questione. Hai mai fotografato i piedi delle donne? Oliviero? Aspetta che non si sente. Richiamatelo, che è interessante. Antonella Brescia, intanto, vai, richiamate Oliviero, i piedi delle donne. Piedi. Buongiorno. Dimmi, Antonella, dimmi. Allora, tu hai dei bei piedi, Antonella? Allora, lasciamo perdere questo aspetto, questo mi mancava, adesso ti sei concentrato sui piedi. Beh sì, ma io mi sono... delle donne, però degli uomini non ci interessa. No, per gli uomini non è importante. No, certo, è ovvio, perché tu sei sempre su quella lunghezza d'onda, un po' perché così... Cioè, quale lunghezza d'onda? Aspetta un attimo, aspetta Antonella, aspetta un secondo. Sì. Ti piace Toscani come uomo? No, per niente. Per niente. Vabbè, no, per niente. Vabbè, ok, d'accordo. No, non mi piace per niente le cose che ha detto. Aspetta un attimo. Condivido. Aspetta un secondo. Vorrei chiedere a Toscani cosa fa lui per rendere il popolo italiano e l'Italia migliore. Vabbè, paga le tasse. Col suo lavoro, Col suo lavoro rende l'Italia migliore, perché ci rappresenta. Oliviero, scusa, spiegami una cosa. Tu hai mai fotografato i piedi delle donne? Sì, è difficile, pochi hanno i bei piedi. Poche donne hanno bei piedi? Sì, ecco. No, i piedi normalmente sono un arto difficile da fotografare, anche le mani. Ma tu, non ho capito, tu cosa pensi dei piedi delle donne? C'è qualcosa che ti arrapa o ti lascia indifferente? Belli, tutto ciò che è bello mi piace. No, ma siccome sono un elemento anche sessuale i piedi, secondo me, cioè se una donna ha dei brutti piedi, io per esempio probabilmente spesso... No, tremendo. Cioè non proprio, non mi si rizza proprio, capito? Non so, no, come dirti. Come i denti sporchi, No, vale. Peggio secondo me, peggio. Sì, probabilmente sì, peggio. Anche no, per te è così, anche per te è così. No, cos'è un piede bello? Un piede bello cos'è? Piede bello è un bel regalo. Sì, no, ma che cos'è? La forma del piede, per essere bella, che cosa deve avere? Come hai i piedi? Parenzo? Non sento. Olivia è impazzito, vai, ciao. Allora, Antonella, non ho capito che dicevi. No, volevo intervenire per quanto riguarda lo Giustoli, che io sono d'accordissimo nel dare la cittadinanza... Bene. Ai nati in Italia. Sei d'accordo, questo, benissimo. Questo discorso che facevi tu all'inizio della trasmissione, se la devono guadagnare la cittadinanza, ma scusa, mi viene da dire, ma tanti italiani se la sono guadagnata, compresi i tanti italiani maschi che ti telefonano, che chiamano la tua trasmissione dicendo delle cavolate, una dietro l'altra, ma che cittadini italiani sono? No, ma non ho capito, scusami, chi è a contrario a questa roba qua, che cos'è, indegno, fascista? No, ci sono molti paesi, molti paesi, no, chi nasce non è automatico. È antico. È arrivata lei, è antico. Sì, è antico. Io volevo dirti che non ho assolutamente paura di una donna incinta africana. Ma chi ha detto che ha paura? Quella ascoltatore di prima l'ha detto. Non ho assolutamente paura, mi fanno paura le persone come te come quelli che telefonano alla tua trasmissione. Perché, che cosa ho detto io? Chi è contrario? Siete in tanti, sfruttando il corpo delle donne, parlando di prostituzione come se fosse la cosa più naturale del mondo, assolutamente, quando non lo è naturalissimo. È una forma di schiavitù. È naturale la prostituzione, è normale la prostituzione, non è normale. Sfrutti un corpo di una donna povera. Sfrutto il corpo di una donna povera. Questo è vero. Anche chi va a cercare un lavoro non ed è povero, tu sfrutti te secondo la tua teoria. Deve denunciare. Ma cosa c'entra lo sfruttamento? È un do-ut des, come una persona che va. Che mercifica il proprio corpo. Ma perché una persona che va a fare le pulizie non usa il proprio corpo? Allora, una donna che va a fare le pulizie non usa proprio. Perché siete bigotti! Siete bigotti, questo è il motivo. Non è vero, è una forma di schiavitù come quella. Fermali. Bianchi e neri nell'Ottocento. Sì, nell'Ottocento. Antonella, mi sono arrivate delle pilloline dalla Spagna. Dalla Spagna. È la stessa forma di schiavitù che c'era nell'Ottocento. Ho ricevuto una missiva con delle pilloline dalla Spagna. Hai bisogno anche delle pillole. Pilloline dalla Spagna. Ma pillole perché? Perché non ce la fai da solo? Afrodite. Ma quali erbe? Rafforzative. Dico, farcela da solo. Ormai 50, oppure hai 52 se anni. Vuoi te la via. Le vuoi due? Te le mando. No, io non ho nessun bisogno. Le volete guarda. Qua? Volete un paio di pilloline? Non c'è bisogno. Lì sì, la corte sicuramente ha bisogno. No, un giorno a fare quegli audio lì, ma sì che ha bisogno. Te lo dico io. Mercurio ne parliamo. Adesso parliamo seriamente. Siete due delinquenti, pagliacci e imbecilli. Andate a fare il culo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. David, ma hai presente le tappe del tuo corteggiamento? Prima il messaggio, poi i fiori, poi un regalo, poi il cinema, poi la cena. Beh, ma i chiavanzano parla proprio, e che cazzo. No, ma c'è una volgarità di fondo, vedi, il non comprendere la bellezza dell'avvicinamento all'altro e della conquista di questi. Ma le vuoi due pilloline o no? Veramente, no, te le mando se vuoi. Ti assicuro che non ho bisogno. Sei sicuro? Ti assicuro che rafforzano. Chiedi in giro, non ho bisogno. Non ma ho bisogno. Danno anche sicurezza ogni tanto. Chiedi in giro, non ho bisogno. Chiedi alla tua fidanzata se ho bisogno o no. Te la tiri. Allora, Susanna Messaggio contro Malena. Che trust. No, la cosa è incredibile. Cervelli. Ieri sera la gabbia, poi, tra l'altro. Sì. Susanna Messaggio l'ho visto, era buono. Era buono. Sei veramente vergognoso. Era buono. Malena, come al solito, Malena Pugliese dice un lavoro duro e faticoso. Era buono, l'ho visto, era buono. Messaggio abbiamo scoperto noi. Era buono, che ti devo dire di più? Era buono. Allora, Susanna Messaggio si incazza perché Malena racconta di essere fiera di fare l'attrice hard, che è un lavoro come gli altri, e Susanna Messaggio si incazza. Ti ripeto che la faccio come professione, non la vedo assolutamente pericolosa, perché insomma non penso di fare del male. È la libertà di cui se non a te stessa. Noi abbiamo anche sognato con Moana Pozzi, perché, qui è un'altra roba. Scusami Gian, se non a se stessa, sì. Perché ci vuole un bello psichiatra per questa ragazza, perché mancano i valori. Mancano i valori, ma come si fa a stare dalla parte della Messaggio? Tu sei dalla parte di Susanna Messaggio. Mancano i valori, ma sì, ragazzi, io voglio dire che... ma che mondo immaginate? No, nei mondi contemporanei, non in Arabia Saudita, dove cambiano pure le pubblicità, non so se hai visto. In Arabia Saudita cambiano le pubblicità, coprono le parti che per loro sono indegne di essere mostrate. Questo è l'Islam, non è un'altra cosa. Questo è l'Islam. Voglio dire solo che la disgrazia, la tragedia di avere un figlio o una figlia che pratica quella carriera lì, ma è l'Occidente veramente anche questo. Io mi chiederei dove ho sbagliato, quindi ha ragione Susanna Messaggio. Susanna Messaggio dice che non ha valori, ma che ne sai che non ha valori? Valori, questo è un altro discorso. Però da padre mi chiederei dove ho sbagliato. Questo Susanna Messaggio, senti. Tipo di professione che bisogna cercare di capire perché una ragazza brava, per bene, che ha un lavoro, deve scegliere. Non sono una bacchettona, sono antica se vuoi, sono matura, però ci sono dei disagi familiari, c'è dell'anaffettività, perché il sesso purtroppo non lo puoi fare con chiunque. C'è dell'anaffettività. Sì, su questo dice, ha perfettamente ragione la Messaggio. Dice una cosa lucidissima. Vero. Non è vero che il sesso non lo puoi fare con chiunque, però. No, mi dice Bagatta che intanto lui osservava la Malena. Mi hanno detto che aveva. Sì, Bagatta. Era la gabbia di sera. Il buon vecchio mi hanno Bagatta. Detto che era praticamente ottimo scatenato. Bagatta. Cioè Bagatta era concentrato sulle cosce o non so su quello no, che si vedeva dalla Malena. Bagatta è fidanzatissimo, figura una persona ben bene, fedelissimo. Non può guardare donne, scusa. No, Bagatta non è da Bagatta, fidati. Ma ti assicuro che guardava Malena. Ti assicuro che Bagatta non mai una battuta fuori, ma è un lord, è un lord inglese. È un lord inglese. È un porco rinnegato. Ha rinnegato l'essere porco. Bagattone no, totale. Bagattone è un grande lord inglese. È di un'eleganza. Lui stesso è uno dei maestri del corteggiamento, peraltro. Che cazzo dici? Sì, te lo dico io, è uno che offre. Bene, fa corteggia. No, offre non tanto, direi. Allora a questo punto anche un Rocco, anziché saltarlo come un eroe nazionale solo perché uno è donna, non può fare pornografia. No, perché poi no, se una donna è donna vera non la fa la pornografia, credimi. Se una è una donna vera non fa la pornografia, anche su, ma anche se una vuole fare la pornostar, perché c'è una come Susanna Messaggio che si mette a fare la moralista? Però c'è un problema di affettività sicuramente. Ma che affettività, non dire cazzate. E anche di senso di sé, cioè, vabbè, oh, io ci starei male se qua, ma se cosa c'entra che lascia perdere tua figlia? Ma che lascia perdere? No, però ti voglio far sentire una cosa. Io mi medesimo poi. No, però aspetta un attimo, io chiamerei il capo siciliano o calabrese, il capo calabrese. No, guarda, anzi, che non è il responsabile del sud dei fasci del lavoro. Ma guarda, quelli, che non, quelli non sono gente spirituosa. Quelli che hanno eletto Fiamma in provincia di Mantova. Cioè il capo è un siculo. Che è siculo? Dove cazzo è? Calabrese, calabrese, mi dicono calabrese. Calabrese. Sentiamo. Sì? Pronto? Sì, mi dica. Fasci italiani del lavoro? Pure. Sì. Sì, buonasera, con chi parlo? Con l'ingegnere Criseo. Ah, ingegnere Criseo, buonasera. Buonasera. Buonasera, no, ho trovato questo numero su internet, volevo iscrivermi a questo dopo questo episodio incredibile di Mantova. Non so se lei ha conoscenza. Sì. Negrini? Di Negrini, esatto. Io volevo iscrivermi al vostro movimento, come faccio? Deve cercare la sua zona, perché qui siamo al sud, io sono coordinatore per il sud Italia. Ecco, ma che quello. Bisogna fare per iscriversi, scusi? Bisogna compilare un modulo. Sì, poi? E consegnarlo alla più vicina sezione del movimento. Ma quanti siamo in tutta Italia? Siamo, dimmi tu poi. Quanti siamo? Non è che siamo in molti, lei sa che noi fascisti siamo sempre criticati e bastonati. Sì, mai troppo. E dunque non siamo in molti. Non siete molti, No, vorremmo esserlo. Ma bisogna essere fascisti veri per iscriversi, no? Beh sì, certo. Io sono fascista vero. Ecco. Ma in che senso? Che vuol dire fascista vero? Mussoliniano. Mussoliniano, cioè Mussolini è stato un grande statista. È stato un grande statista. Ce ne vorrebbe uno anche adesso, diciamo la verità, diciamola tutta, amico mio. Dal mio punto di vista sì. Sì, beh, certo. Però dal punto di vista della Boldrini no. Ma come la giudica a proposito la Boldrini? Comunque, aspettiamo. No, è una nulla facente. Facenti. Lei è della Sicilia? Della Calabria. Della Calabria. Ma in Calabria quanti sono i fascisti, mi scusi? Ma lei non mi ha detto come si chiama. Mi chiamo Francesco Lorovere. Francesco Lorovere, non ho mai avuto il piacere di conoscere. Eh no, appunto, io ho trovato questo numero. Siccome ho dei parenti in Calabria, spesso vengo in Calabria, ho pensato di iscrivermi in Calabria, capito? Aspetta. Lei sa una cosa, che un fascista è difficile prenderlo per il sedere? Lei dice? Certo. Scusi, io la chiamo per dire che mi vorrei capire come iscriversi, eccetera. E lei mi dice che la sto prendendo per il culo, scusi. No, giovanotto, lei mi dica quello che... No. Aspetti, le passo un mio amico, un attimo solo, Sì. Sì. Sì, pronto? Sì, pronto. Sì, salve, sono Parenzo. Mi dica. No, dico, non si vergogna? Io? Sì, chi? Io ho assistito 10 minuti di elogio del fascismo, 10 minuti di elogio del fascismo. Ma è una vita che noi elogiamo il fascismo. Amico mio, ma è contro la legge però, la informo di questo, è una repubblica democratica l'Italia, il fascismo... L'Italia è una cazzata democratica. Eccolo qua, il vecchio fascista, Io dico, ma lei non si vergogna di dire queste cose ancora oggi? Calma, si vergogna o no di dire queste cose nel 2017? Ma lei non si vergogna di essere incapace di ragionare? Ma chi ti è capace di ragionare cosa? Ma le pare che nel 2017 c'è Mussolini, ancora il fascismo... E iscrive la gente a questo fantomatico partito. Andate arrestati tutti voi, uno per uno, amico mio. Provate a venire ad arrestarci. Nel 68 non ci siete riusciti. Ma ci siete nel chi? Nel 70 neanche. Nel 74 senta, neanche. Senta, invece di continuare a diffondere il verbo fascista, si deve solo vergognare, deve chiedere scusa. Lei voi è una tragedia. Voi non avete niente da fare. Lei è una tragedia. Io sono un uomo. Beh, questo è da vedere. Uno che si definisce fascista non è un uomo, è una tragedia umana con i crimini che sono stati commessi. cosa dovrei definirmi per essere un uomo? Comunista? No, comunista chi se ne frega. È una tragedia umana definirsi fascisti del 2017. Ma chi è che ha preso il telefono? Ma te ne vai un attimo, ma che stai dicendo a questo qua? Questo signore è una tragedia umana. È una tragedia umana. Chiedete scusa, avete fatto l'elogio del fascismo. Avete fatto. Taci, levami il telefono. Criseo, mi perdoni, mi perdoni per questo. Cioè, mi perdoni. Che radio è la vostra? Radio Repubblica Sociale Italiana. Bravo. Questo, voi dovete mettere su una radio Repubblica Sociale Italiana. Siamo di fronte al fatto che sto signore qua impunemente fa l'elogio del fascismo in diretta radiofonica. Le do la possibilità di chiedere scusa. Chieda scusa, dice Parenzo, Criseo. No, io lo posso mandare a fare in culo se lui altro che chiedere scusa. Io le do un'ultima possibilità. Chieda scusa. Io la mando a fanculo per l'ultima volta. Un'ultima possibilità. Ma senta una cosa, ma perché deve prendere in giro me e non prende in giro i comunisti? No, ma li prendiamo in giro i comunisti. Ma quali comunisti? Sono dei bastardi. Sì. I comunisti hanno firmato la Costituzione italiana, lo sa o no? Ma li andate a cagare con la Costituzione hanno italiana. Hanno firmato la Costituzione italiana, firma, c'è la firma dei comunisti. Che sono dei traditori, che loro hanno liberato sono l'Italia. Assassini pure, assassini. Ma chi assassini? Senti l'altro, ma che dite? Assassini hanno liberato l'Italia. Il I partigiani come sono? Ma figo, degli eroi. Basta con queste cose! Non se ne può più! Basta con questo revisionismo! Criseo! No, Crisalide, non lo voglio sentire più! Basta, Crisalide! Finito! L'Italia non si è svenduta ai tedeschi. Vi avete svenduto il paese! Vergogna! Fammi una canzone, Criseo! Non fate niente! Chiudete l'interruzione immediatamente! L'interruzione. Noi nazionalisti abbiamo svenduto l'Italia. Svenduto l'Italia. Ai tedeschi. Cantiamo insieme. Fascetta nera, bella abissina. No, ma aspetta, la magistratura si avvicina. Quando saremo vicino a te, noi ti daremo un'altra prigione, un altro re. È indecente. Noi siamo indecenti. Siamo in democrazia. La democrazia prevede che faccetta nera. Siete nella merda, non nella democrazia. Aspetta. Era che il PM si avvicina. Quando saremo vicino a te, ciao, ti manderemo in galera. 1, 2, 3. Ciao, giovanotte. We are liars. Il signor Criseo, ma io, amico mio, ma come ti sei scatenato? Non li sopporto più questi qui, non li sopporto più, non è più possibile. Però so Criseo era simpatico, dai. Ma un po' era simpatico, il vecchio fascista calabrese, come dei sassi nelle scarpe, ma non è gente simpatica, ma non dovrebbero neanche parlare, ma no, ma capisci che è un reato? Perché non lo capisci? Sergio da Roma, vai Sergio. Sergio. Sì, eccomi. Dimmi. Allora, io volevo parlare con Iuris Toli, con Parenzo. Perché, che vuoi dire? Dai, prima. Dimmi che cosa vuoi dire, veloce, dai. Niente, che devo dire? Parenzo è capace a fare 2+2. Prima un radioascoltatore ha detto che praticamente avremo tutti i balconi pieni donne incinta. Non è una possibilità così remota. Poi mettiamo questo qua insieme al reddito di inclusione che tirano fuori e traete un po' le conseguenze. Cioè, non ho capito. È facile, no? Cioè, dire, nei balconi si riempiranno di gestanti? I gestanti e partoriranno qui e praticamente gli daranno reddito di inclusione con tutto quello che prevede il reddito di inclusione. Tu prevedi praticamente una migrazione in massa di donne che vogliono partorire in Italia. Ma figurati perché. Perché non è possibile? Ma perché già adesso arrivano le donne incinte, ma non è che arrivano perché vogliono che i loro figli siano italiani. Ma arriveranno di più, ma che arriveranno quelli che devono arrivare comunque, ma non li fermi comunque. Scusa, fino ad oggi come che non ce l'ho fermo? Io soli. Fino ad oggi non è che hai fermato la migrazione con la legge Bossi-Fini che è ancora in vigore. Oggi c'è in vigore una legge che si chiama Bossi-Fini. Ma le invoglia ancora di più, Parenzo, le invoglia ancora di più. Non esiste legge che blocca la felicità. Il paese è questo, Iuri, vai. Non esiste legge per bloccare la felicità. Ciao Giuseppe, buonasera, saluto anche Parenzo. Io sono assolutamente contrario a questa minchiata di legge sulla rassegnati perché ti devi rassegnare tu Parenzo, rassegnati tu amico mio questa rassegnati. Legge, no, innanzitutto non sono amico tuo, non passerà è un modo di dire ironico, rassegnati amico mio, rassegnati, faremo ci sarà un referendum. Ma quale referendum? Lo perderai il referendum? La vita, l'Italia è diversa da come era presente. Lo perderai. Sai che ti posso dire una devi cosa? Devi spiegare perché tu pensi raccogli le firme, tanto lo perdi. Raccogli le firme. Di essere italiani, perché se tu non vuoi più stare in questo paese, amico caro, il biglietto per Israele te lo pago io. Ma cosa c'è da Israele? Te lo pago io. Io sono italiano, perché devo andare in Israele? Perché essere italiani è ancora un valore. E perché non hai detto in America, ad esempio? Perché non hai detto... E a quelli come te. Certo che mi interessa, sono italiano, ma distingo e dico che preferisco altri italiani a lei, ovviamente, però anche lei è italiano, e quindi va bene come in tutto. Ademen. Facciamo un delirio! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Sì, va bene, vaffanculo.